fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci di nuovo qui su Resto Radio Convento Live, Master Nick al microfono, ma eccoci di nuovo qui con la nostra Laura, ormai ospite, direi, sembri un po' Valeria Marini a Grande Fratello, cioè tipo ogni quattro puntate arriva. E deve dire qualcosa di nuovo o no? A parte gli scherzi, perché l'abbiamo intervistata, abbiamo chiacchierato con lei all'inizio della serata. Potrebbe anche un po' essere una sorta di fil rouge circolare, perché adesso bisogna vedere come è finita la serata. E adesso abbiamo anche modo di vederla sulle nostre webcam, così potrete ammirare lei e tutto il loro gruppo, di tutto il suo gruppo di amiche, in tutto il loro candore, perché sono tutte bianche e quindi sembrano tanti piccoli fiocchi di neve, che sono qui a rallegrare questo maggio pazzerello. Allora, risalutiamo Laura. Ciao! Che ciao. È sempre di Brescia, non hai cambiato residenza nel frattempo? Verona. Ah sì, Verona. Hai visto che... Non si sente. Allora sì, sei pulita nell'accento. Allora, probabilmente avranno detto Brescia prima, mi ero fissato con Brescia. E, abbiamo parlato all'inizio serata della tua aspettativa commerciale di vendita di patate. Adesso a questo punto vogliamo capire se hai raccolto i frutti del tuo impegno, del tuo operato. Allora, devo dire che la televendita che abbiamo fatto prima è andata egregiamente. Ho finito di vendere tutte le patate. Ma che bello! Con un ottimo guadagno. Di più o meno? 100 euro. Sei seria? No, seria. Dov'è che l'avete prese quelle patate lì? Erano molto buone, di qualità. Ma è per quello che me lo chiedo, perché domani c'ho il giorno libero e siccome, infatti, insomma, devo un attimo fare dei lavori in casa, e può essere un modo per ammortizzare i costi o comunque per finanziarmeli, no? Esattamente, infatti pensavamo proprio prima di licenziarci dal lavoro per vendere patate. Perché è spettacolare così. Allora facciamo questa domanda che è importante per far capire al pubblico come funziona il mondo, ma anche per me, per cominciare a entrare meglio in questo fantastico commercio. Cosa secondo te ha fatto sì che questa avventura andasse così bene? Cioè, qual è stato l'elemento fondamentale a farti guadagnare così tanto? Allora, sicuramente la tua bellezza, la tua simpatia, la tua verve nel parlare la con gli altri, la modalità d'approccio. Vai, raccontacela allora, perché a questo punto è ente. Con la bacchetta magica che ha aiutato sicuramente nel fermare questi poveri ragazzi. E il sostegno tu, tu stai veramente dicendo che un essere umano con cervello pensante, quindi, di fronte a una bacchetta magica e quelli che gli dice fermati, lui si ferma? Certo, ci hanno anche donato 20 euro in un colpo solo. Senza dire così, solo perché li hai fermati con la bacchetta magica. Fermati, gli ho dato un aiuto di aiutarmi nella vendita di queste patate e loro gentilmente mi hanno offerto questi soldi. Ma tutti maggiorenni? Quindi domani si presenteranno in cabina elettorale queste persone. Esatto. Perfetto. Siamo in buone mani. E questo ci dà veramente tante speranze sul destino del nostro paese e sul futuro della nostra Italia. Però siamo contenti che comunque tu hai approfittato di questa modalità d'approccio per insomma, portare a casa quanto di più possibile. Quindi la bacchetta, diciamo che è stata il via, ha dato là tutto, il tocco magico. Ma come li hai approcciati al di là della bacchetta? E poi li ho un po' imbrogliati. Come imbrogliati, non è così che si parla, E se no è tipo Vanna Marchi, ti restituiscono tutti i soldi. Ah, è vero, perché no, è fatto un po' di pietà e poi li ho convinti con l'omaggio della caramella. Ah, anche la caramella va forte. È vero, vabbè, l'omaggio che va forte, perché tu mettici la parola gratis che loro in qualche modo vanno in un universo parallelo e sono disposti a darti tantissimi soldi per averne una cosa gratis, ma in quel momento non si rendono conto che per avere quella cosa gratis hanno speso dei soldi e quindi quella cosa gratis magicamente non diventa più gratis, ma avendoli la data senza uno scambio di per loro diventa gratis. È bellissimo questo meccanismo della mente umana e tu l'hai sfruttato a tuo vantaggio. Brava, complimenti. Ricordiamo quindi che ci sarà una festa, un matrimonio incredibile, perché a questo punto il budget per finanziarlo e per festeggiare o per la cerimonia è andato alle stelle, quindi c'erano fuochi d'artificio, limousine, motoscafi, bottiglioni di champagne che gireranno. Brava, complimenti. A proposito di matrimonio, ricordaci anche quando sarà. Il il 15 giugno. Ricordaci anche con chi, perché magari c'è anche una persona. Con Emanuele, molto bene. E soprattutto ricordaci, perché non l'abbiamo fatto prima, chi ti accompagna questa sera, perché hai tante bianchissime amiche, come diciamo prima, quindi candeggio fatto alla perfezione, però è giusto anche che ce le presenti. Allora mi accompagna la sorella Emanuela, la collega Emanuela. Scusa, con chi ti sposi? Emanuele. No. È per non sbagliarsi. Ah, giusto. Una bella vita, una vita facile, una vita semplice, giusto così, così non te la complichi. E le amiche Valeria, Greta, Chiara, Linda ed Elena. E Linda, bellissimo, bellissimo. Siete sì, le uniche, giusto, siete tutte qua. Perfetto. No, sono ancora scioccato dal fatto che praticamente sia una famiglia di Emanueli, cioè non ne uscite vive praticamente. Questo è un nostro amico. Ah, è un nostro amico anche lui. Sì, anche. Però meglio, ultimamente non lo conosco. E anche questi ragazzi che ci stanno importunando non li conosciamo. Non li conoscete. Ci sta un po' a vergognarsene. E okay. Allora, devi mandare un messaggio a Emanuele, vuoi dire qualcosa? Bevi meno. Ok, perfetto. Ma perché è fisicamente qui davanti ai nostri occhi e quindi diciamo che non sta facendo una bellissima figura. Vuoi anche descriverlo magari, così il nostro pubblico che non può vedere in questo momento, non perché è incapace ma perché non fisicamente qui, può capire meglio perché dovrebbe controllarsi? È vestito da Caius dell'Imbergas, da Centurione. Da Centurione? Ma tu sapevi che veniva qui? Sì. No, okay. Cioè, no, non lo sapevo, l'ho scoperto prima. Ah sì? Perché ci hanno prelevato separatamente e poi ci hanno congiunto qui. Ah, penso che. Ma voi eravate d'accordo quindi con gli altri, con i loro amici? D'accordo. Penso che bello, pensa veramente. Interessantissima questa serata. Questi? Mi sento un po' osservato. Ma è difficile, è una brutta sensazione questa, perché comunque c'è un altro mondo all'infuori di questo micro mondo e tu comunque devi andare avanti a costruire il tuo, ma nel frattempo non farti distrarre da quello che succede fuori. E come vedete, a volte insomma i soggetti sono particolarmente ispiratori. Ok, per volevo sapere una cosa: lui, quello con gli occhiali in mezzo, è il suo fidanzato? Di chi? Della sorella. E si è Emanuele, giustamente. Per stare tranquilli. Ok, perfetto. Ok, fidanzata la sorella. E gli altri sono amici, tutti amici. Tra l'altro, ne parliamo velocemente fuori onda, la nostra futura sposa fa anche un lavoro molto molto bello. Sì. Vuoi raccontarci qualcosa? Faccio l'educatrice di asilo nido. Asilo nido, quindi dai 18 ai 22 anni, no? Esattamente. Ah, ok, scusa, no, ho avuto un attimo di defiance. Nel weekend fa questo. No, beh, poi c'è un Emanuele da accudire in tutto questo, quindi... Dai 10 mesi ai 3 anni. E va ancora l'asilo nido? Nonostante le tate, nonostante le nonne, le sante nonne, bisnonne e tutto il resto, va ancora? Va molto. Ok. Abbiamo moltissime iscrizioni. Va bene, questo chiaramente mi fa piacere per voi, ovviamente. E volevo chiedere, è un percorso che hai sempre sognato di fare o che hai trovato un po' strada facendo? Io ho studiato anche per fare l'assistente sociale, quindi sono rimasta un po' nel campo okay, del sociale. Declinato però, nei bambini. Però non avevi proprio in mente di andare direttamente sui bambini? Però poi insomma sono approdata al mondo della scuola e lì sono rimasta. Beh, però mi sembra che ti piaccia da come sì. ne parli. Bene, vuoi fare un saluto ai tuoi bambini? Tanto non sì, lo sanno, capiranno mai. Mi hanno visto anche oggi in giro. Ah, davvero? Sì. Penso che non si iscriverà più nessuno da lunedì. Cioè tutte le iscrizioni saranno stracciate, bruciate, alza. Dai, manda un messaggio anche ai tuoi bambini. Un bacione a tutti i miei cuccioli. Perché già parlano italiano. Pensavo che tu ti facessi dei versi a no, casa. No, parlano. Ah, parlano già italiano. Qual è la parola più ricorrente? Awa. Awa. Laura. Awa. Io pensavo Hawaii, quindi figurati. No. Che già puntavano altissimo. No, oppure acqua addirittura. No, Awa, perché mi chiamano. Ah, ti chiamano Awa? Bello Awa. Potresti pensarci per un futuro. Visto che già avete un po' di casini come nomi in famiglia, magari cambiandone uno diventa un attimino un po' più originale, come soprattutto le cene di Natale, almeno quando vi fate gli auguri uno con l'altro. Ogni tanto sentite un nome diverso. Esatto. Che non fa bene, che non fa mai male. Qualcuno di voi vuol dire qualcosa alla vostra sposa? La sorella, amiche? Ripensaci. Madonna. Perfetto il messaggio alla sorella. Sostegno, messaggio alla sorella a 15 giorni dal. No, un po' di più. A una ventina di giorni dal matrimonio, direi che è quello che serve per fare lo sprint finale con la massima positività e serenità. No, lo so che le voglio bene. Sì, anche perché in fondo no, ti vuole bene nel momento in cui lasci la camera più grande e quindi se ne può appropriare. Ah, sì. Vedi, allora niente, allora sei già a posto. No, sono sincere, parole sincere. Non c'è secondo fine. Questo è quello che conta. Va bene, allora grazie a te e grazie a tutte le tue amiche che ti hanno ospitate e a questo punto grazie anche agli amici che hanno organizzato la controtà insieme a voi. Speriamo che vi siate divertiti e che non siate stati troppo gelosi uno dell'altro, no, che è quello che conta. Dai. Bene, bene. E ovviamente in bocca al lupo per il vostro futuro, grazie, e per la bella festa che vi aspetta tra una quindicina di giorni. Ricordate dove si terrà tutto questo? A Arcole, quindi nel vostro paese natale, comunque lì in giro? Sì, poi ricevimento. Ok. Dicevo, ecco, se gli abitanti, ecco, di Arcole, i famosi arcolani, le 12 fai degli arcolani, se quel giorno vedranno un botto di casino, fotografi, la Chiara Ferragni che verrà a fare foto lei stessa e verrà a fare storie su Instagram, fuochi d'artificio e tutto, chi più ne ha più ne metta, il Papa, se si parla del Papa ad Arcole, sappiate che questo è tutto grazie alla vita ripatate della nostra futura sposa. Tutti quelli che ho incontrato oggi saranno presenti al matrimonio. Esatto. Quindi se invece del reddito di cittadinanza, se state cercando lavoro, buttatevi nel business delle patate, che è un business che rende, mi raccomando. E grande festa ad Arcole. Grazie mille ragazze e buon divertimento. Grazie. Ciao.